Siamo in collegamento telefonico con Rosario Mastrota della compagnia Ragli per parlare con lui del loro nuovo spettacolo Borderline in scena a Roma alle Carrozzerie Notte il 25 e il 26 gennaio. Rosario, ben ritrovato. Ciao Federico, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi ascoltatori. È sempre un piacere, lo sai. Lo so, è reciproco. Senti Rosario, partiamo sem come sempre con qualche cenno sull'esperienza della compagnia. Come è noto, Compagnia Ragli da sempre affronta temi di spessore sociale, temi di teatro civile e anche in questa nuova produzione ci confrontiamo con un tema importante che è quello dilagante della xenofobia, che insomma, è una piaga che sta invadendo la nostra cultura sociale italiana e non solo, anche quella europea purtroppo. E Borderline è uno spettacolo che vuole mettere, diciamo, un po' in allarme una situazione che potrebbe essere dilagante e che potrebbe creare tutta una serie di dinamiche spiacevoli nel nostro paese, ecco. Ovviamente affrontiamo, come al solito facciamo in tutti i nostri spettacoli, tutto questo con ironia e con il grottesco, che è questo genere che a noi piace tanto. Rosario, che sedimentazione ha avuto quest'idea e come ci avete lavorato sopra? Abbiamo lavorato partendo questa volta dagli attori, perché abbiamo cercato un gruppo di attori formidabili, che mi piace citare, sono Antonio Tintis, Matilde Vigna e Giuliana Vigogna, con i quali abbiamo fatto una chiacchierata su come poteva essere affrontato il tema, partendo ovviamente dal mio testo, e ci abbiamo lavorato davvero con una bella sinergia. Non sono attori della compagnia, ma sono degli attori esterni che si cimentano, che ci incontrano per la prima volta nel nostro lavoro, e abbiamo davvero messo mano al testo e fatto uscire quelle che sono poi le dinamiche che vedrete nello spettacolo, in cui è tutto spostato in avanti negli anni, siamo in un mondo futuribile, in un mondo possibile in avanti nel futuro, e la condizione è quella che c'è un paese bloccato, bloccato nel senso di bloccati gli ingressi dal mare, bloccati gli ingressi aerei, tutto fermo e tutto immobile. Perché la soluzione per fermare, per esempio, un fenomeno che è quello che è il fenomeno migratorio è stata quella di costruire un muro di cemento armato su tutte le coste della penisola italiana. E quindi partiamo con questa idea di confine, e chi sta sul confine a volte accusa questo malessere che vogliamo raccontare nello spettacolo, che è quello di restare in trappola, restare intrappolati. Senti, questa apertura della compagnia verso appunto attori e attrici esterne? Sì, era un po' per celebrare l'avvicinamento ai nostri 10 anni di attività e interrompere quello che è stato il percorso precedente che, come sai, ha affrontato il tema 'Ndrangheta, che abbiamo deciso di mettere da parte, e quindi abbiamo osato, tra virgolette, la voglia di voler lavorare con degli attori esterni che incontrassero la realtà Compagnia Ragli e viceversa. E devo dire che siamo stati fortunati perché, lo ripeto, gli attori sono veramente, veramente bravi. Senti, che percorso avrà insieme alle due serate alle Carrozzerie Notte? Che date avrà lo spettacolo poi nella stagione? Sì, allora, l'operazione Carrozzeria Notte viene fuori da un altro bellissimo incontro, che è quello con Mauro e Francesco, che sono i due gestori delle Carrozzerie Notte, ai quali abbiamo espresso la nostra necessità di voler mostrare il lavoro a degli operatori, a dei critici, e volevamo realizzare un video promozionale da poter usare per promuovere lo spettacolo, e loro ci hanno dato ovviamente ospitalità immediatamente, quindi abbiamo fermato una data. Poi, riflettendo, abbiamo anche pensato di offrire a Carrozzeria Notte e alla città di Roma anche l'anteprima dello spettacolo che circuiterà per tutta la stagione prossima. E quindi ci siamo detti facciamo un'anteprima a Carrozzerie e abbiamo scelto la data, il 26 gennaio. Bene. Allora, chiudiamo Rosario con i vostri riferimenti internet per saperne di più. Allora, sul nostro sito www.compagnaragli.com in home page ci sono tutti i riferimenti per prenotarsi alla data del 26 tramite la mail messa a disposizione da Carrozzerie Not e sul nostro Facebook invece, oltre all'evento con indicate tutti gli orari e le modalità di prenotazione, trovate anche tutte le informazioni sullo spettacolo. Allora, ricordiamo Borderline 25-26 gennaio a Carrozzerie Not qui a Roma. Rosario, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Ti aspetto. Ciao. Un abbraccio a te e saluti a tutti.